vino ti stringerò e ti bacerò e ti unirò e solo tuo, tutto tuo, sempre tuo sarò. Pronto, pronto, lupetta, ti vengo a pigliar. Pronto, pronto, tre salti con te voglio far. Pronto, pronto, per aria ti voglio gettar. Pronto, pronto, sei pronta, non dirti no, ti stringerò. Solo tuo, tutto tuo, sempre tuo sarò.